gente abbandonato. La vita non ha scopo, nessuno vuole restare con me. E sono sola, e sono sola. In nessun luogo trovo pace, la quale mi ha lasciato. Sono sola, mi sento solo nella notte, la testa che mi batte, il buio entra anche in me. E sono sola, e sono sola. Mi sento tanto infelice, la quale mi ha lasciato. Sono sola. Fatico, a nulla vale la disperazione. Sono solo, sono solo. In nessun luogo trovo pace, la quale mi ha lasciato solo.